13.400 euro l'anno, come la busta paga di un lavoratore precario, è quanto, in media, dichiarano al fisco i gioiellieri in Italia. Vita davvero magra, stando almeno alle dichiarazioni del modello 730. Solo l'1% dichiara oltre 100.000 euro, lordi naturalmente. Un vero scandalo, come conferma il giro d'affari all'anno del settore, stimato in 225.000 euro medi a gioielliere. Mario Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Dalle attività che abbiamo svolto nell'ultimo anno e mezzo abbiamo riscontrato parecchi casi di evasione e abbiamo complessivamente recuperato a tassazione oltre 32 milioni di euro. Normalmente qui l'occultamento dei ricavi è facilitato in molti casi anche dall'acquisto in nero di materia prima, pensiamo all'oro che viene magari venduto direttamente dai clienti che permutano i vecchi gioielli, oppure anche attraverso gli intermediari del settore, negozi compro oro. Proprio quello del compro oro è un fenomeno in netta ascesa, ma questa è un'altra storia e ce ne occuperemo domani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.